lontano, mai più senza la mano che ti veste il cuore, mai più così lontano, mai più così lontano, mai più senza il calore che ti scalda. Guarda questa terra.

I believe in a world and giving all